e Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Insieme a te non ci sto più, possiamo dirlo anche bene sì alla nostra banca. Nicoletta, ci abbiamo scherzato un sacco di volte. Molto sulla fedeltà che non paga. In materia di denari e di banche il concetto di fedeltà non è sempre e per forza un valore positivo. Cambiare banca si può, cambiare conti in banca si può e ti dirò di più, Nicoletta, che ultimamente è diventato anche più facile. Ti ricordi? Abbiamo parlato altre volte. E allora, oggi nella prima parte di Cuore Denari parliamo della portabilità del nostro conto corrente, ovvero della possibilità di trasferire in modo automatico, senza spese, senza stress, i nostri risparmi, il nostro denaro da un istituto ad un altro tramite una procedura automatica. Allora, questo è possibile, lo ricorderete, dal 25 giugno scorso. Da quella data infatti la burocrazia è stata praticamente azzerata. Le nuove norme sulla portabilità prevedono che il passaggio avvenga entro massimi 12 giorni lavorativi, altrimenti scatta l'indennizzo a favore del correntista. Noi oggi, dopo questo trimestre abbondante, facciamo un punto della situazione, tracciamo un primo bilancio di queste novità. Voi intanto raccontateci all'800240024 se negli ultimi tempi avete tentato di spostare il vostro conto corrente, perché, quanto ci avete messo e soprattutto come ha reagito la banca. Allora, parola d'ordine, mi sembra di poter dire, Debra, che oggi è cambiamento. Assolutamente. Noi parleremo di un cambiamento che preoccupa molto le autorità sanitarie, la comunità scientifica, il calo delle vaccinazioni, tema delicato su cui circolano moltissime informazioni tra loro contrastanti, e questo genera dubbi, preoccupazioni e timori. In questi casi urge fare chiarezza. La strada è una sola: basarsi sull'esame razionale dei fatti e non sulle opinioni. Ne parleremo nel corso della trasmissione con tanti ospiti. Un super ospite è già in linea con noi. Abbiamo il piacere di avere in linea il ministro Beatrice Lorenzin. Buongiorno. Buongiorno. A tutti. Ministro, prima di parlare di vaccini volevo complimentarmi con lei per l'approvazione proprio ieri sera da parte del governo del decreto legislativo che lei ha fortemente voluto, di cui avevamo già parlato a Cuore Denari, per inasprire le regole riguardante il commercio dei prodotti a base di nicotina e anche per rispettare la direttiva tabacco europea. Ministro. Esattamente, era molto atteso, l'abbiamo portato ieri in Consiglio dei Ministri e diciamo che sono soddisfatta, perché non soltanto in Italia, tra i primi in Europa, noi applichiamo la direttiva e recepiamo l'aspetto, diciamo, principale, che è quello delle immagini forti sui pacchetti di sigarette, che saranno delle immagini molto violente, cioè che è molto esplicite rispetto ai danni da fumo, ma soprattutto attiviamo una campagna molto intensa e molto grande contro l'utilizzo delle sigarette, la vendita delle sigarette nei confronti dei minori, perché è uno dei problemi più grandi. Io ricordo che per l'Organizzazione Mondiale di Sanità il fumo e i rischi da fumo sono la prima emergenza sanitaria in Europa. In Italia fumano circa 11,3 milioni di persone, metà uomini e metà donne, le donne in incremento, ma soprattutto abbiamo un incremento tra i giovanissimi, che dovrebbero essere quelli invece più dissuasi dall'inutilità e la stupidità di fumare. E su questo noi abbiamo eliminato prodotti che potevano essere attrattivi nei confronti dei giovani, come per esempio le sigarette da 10, i pacchetti da 10, perché costano meno del pacchetto da 20 e quindi sono più appetibili per i giovanissimi. Ma poi abbiamo anche inasprito le sanzioni nei confronti di chi vende le sigarette ai minorenni, fino ad arrivare a 3 mesi di sospensione della licenza. E l'altro aspetto importante è quello che è stata una mia battaglia, soprattutto di, cioè sul divieto di fumo in auto alla presenza dei bambini, che è una questione veramente che mette a rischio la salute dei minori, ma anche di civiltà nei confronti dei bambini stessi, e il divieto di fumo nelle pertinenze degli ospedali, delle reparti di pediatria, di oncologia pediatrica, di ostetricia, cioè laddove ci sono bambini, e questo è a seguito anche del nostro divieto nelle scuole. Cioè bisogna dare anche un esempio nei confronti dei minori. Ministro, tra l'altro la portata di questa iniziativa è enorme e ampia, lei ce lo ha ricordato come sia stata anche una sua come dire, campagna personale. Come monitorerà il Ministero della Salute i risultati eventuali, no, di un'iniziativa di questo tipo? Noi abbiamo diversi livelli. Uno è proprio l'attività di monitoraggio della prevenzione, cioè i dati che noi abbiamo rispetto al fumo e alle malattie correlate da fumo, e questo è un monitoraggio che abbiamo in continuazione. Dall'altro aspetto abbiamo ovviamente in AST, ci sono le autorità preposte sia da parte della Guardia di Finanza che proprio dei NAS, cioè dei nuclei dei carabinieri che si occupano del rispetto delle norme riguardo alla qualità della salute, alla contraffazione, e noi su questo, così come sulla campagna contro la vendita dell'alcol ai minori, saremo e stiamo molto attenti. Ministro, adesso voltiamo pagina per occuparci e commentare con lei una notizia di cronaca dolorosa. Nei giorni scorsi è morta di pertosse a un mese di vita una bambina ricoverata al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, una settimana dopo il ricovero, prima nel reparto di neonatologia e poi in quello di malattie infettive. E di fronte a notizie di questo tipo è naturale farsi delle domande. Come è possibile oggi morire di pertosse? Questa malattia, per la quale esiste una vaccinazione, non era stata debellata? C'è il rischio quindi che malattie dimenticate tornino a minacciare la nostra salute e quella dei nostri bambini, come era successo per il morbillo? Ricordo il caso della bambina deceduta per una complicanza lo scorso anno a Roma. Allora, Ministro, noi siamo molto contenti oggi di commentare con lei questa notizia, di dare delle indicazioni ai genitori all'ascolto. La sua presenza qui a Cuore Denari, no, per me Deborah ci fa molto piacere. Questo caso, come possiamo commentarlo? I medici mettono in relazione il decesso con il calo della copertura vaccinale, perché è a rischio quella che viene detta l'immunità di gregge. Ci spiega, Ministro, e ci racconta anche come intendete muovervi per arginare questo calo delle vaccinazioni? Guardi, il problema è proprio questo. Cioè, chi non vaccina i figli pensa che la questione sia ridotta la sicurezza del proprio bambino, tra l'altro sbagliando ed esponendolo a un rischio di morte, come in questo caso, ma abbiamo la poliomielite e abbiamo altre malattie che sono presenti nel resto del mondo e che sono di ritorno, ma non solo mette a rischio la sua vita, ma anche quella degli altri bambini. Perché la base dell'effetto di protezione delle vaccinazioni è quello che viene definito l'effetto gregge, cioè quando tutta una massa di popolazione supera l'80-90% di vaccinazione per una patologia. In questo modo il virus non riesce a camminare, perché se entra un virus e ci sono dei buchi nel gregge, il virus si espande e si trasmette all'interno di una comunità e quindi la persona che non è vaccinata contrae la malattia. Questo della pertosse è purtroppo un esempio clamoroso in cui questa bambina è morta, ma abbiamo avuto recentemente altre epidemie di pertosse anche in reparti ospedalieri portate da adulti, e questo è un problema enorme. Noi abbiamo fatto della battaglia per le vaccinazioni uno degli asset del mio programma di governo. Sono 2 anni che ne parlo ovunque in Italia e in Europa, l'abbiamo portata all'attenzione anche della Global Agenda per la sicurezza della salute mondiale, perché è un problema diffusissimo nei paesi occidentali. E pensi, noi siamo al paradosso che mentre nei paesi del terzo mondo ci chiamano pregandoci di andare a vaccinare i loro bambini, noi qui non lo facciamo con i nostri. Per un pregiudizio, una falsa credenza, falsi miti, la gente va su internet, legge delle corbellerie gigantesche e dà più retta ad un blog senza nessuna base scientifica su internet rispetto a tutti gli studi clinici fatti dal mondo scientifico mondiale negli ultimi 50 anni. Questa è una cosa gravissima. Quindi quello che noi dobbiamo fare è un'informazione battente, dobbiamo spiegare ai genitori che devono vaccinare i figli e poi devono farlo secondo i protocolli, perché un altro problema è per esempio che non vengono fatti i richiami, si fa la prima o la seconda vaccinazione e poi non si fa il richiamo, e quindi in questo modo si rischia addirittura di esporre ancora di più il bambino a contrarre la malattia. E dobbiamo capire tutti che il motivo per cui alcune malattie nel nostro paese non ce le ricordiamo più e non le vediamo più come gli effetti della polio sulle persone è perché ci sono state grandi campagne obbligatorie in Italia e in Europa, obbligatorie. Oggi anche le vaccinazioni obbligatorie in realtà dipendono molto dalla volontà dei genitori e dei medici, ma noi dobbiamo capire che questa è una libertà che abbiamo ottenuto, ma che dobbiamo anche garantire soprattutto per la salute dei nostri figli e dell'intera comunità in cui viviamo. Ministro, noi nella seconda parte di Cuore Denari torneremo ad occuparci di vaccinazioni. Vorremmo invitarla nuovamente ai microfoni di Cuore Denari. Arrivano già riguardo alle vaccinazioni dei messaggi che ci danno un po' il polso della situazione. Sì. Glieli leggo prima di salutarli. Sì. Davide sì. Di Vrea, ad esempio, ci scrive: non si può scaricare sui genitori la responsabilità dei vaccini. Non siamo tutti medici. Ci scrive Roberto da Padova, padre di un ragazzo danneggiato da vaccino documentato. Sono 25 anni che combattiamo, ma fino ad ora niente, negano anche l'evidenza, ci scrive. Mentre un altro ascoltatore scrive: togliere sussidi a chi non vaccina i figli. Ministro, il problema delle vaccinazioni è un problema serio, il calo delle vaccinazioni viene documentato. Naturalmente bisogna lavorare molto, come lei insegna, su un'informazione che si basi su dati scientifici. Insomma, i dati e non le opinioni contano. Esattamente, e soprattutto anche una grande collaborazione da parte dei pediatri, che ovviamente devono seguire il percorso del bambino durante la vaccinazione, prima e dopo. Le faccio un esempio: io ho vaccinato i miei figli, ovviamente prima di vaccinarli è stata fatta una visita, erano due gemellini prematuri e abbiamo accertato le condizioni di salute, abbiamo fatto la vaccinazione, adesso faremo il richiamo. Come tutti i genitori, ci deve essere un rapporto corretto con il pediatra. I pediatri sono coinvolti da noi in questa grande campagna pro vaccino, e per quanto riguarda gli effetti collaterali dimostrati, sono effetti marginali, e questi sono i dati scientifici. Poi rispetto a milioni e milioni di vaccinazioni che vengono effettuate ogni giorno nel mondo, ci può essere il caso dell'effetto collaterale. Certo. Ma noi dobbiamo capire qual è questo, cioè noi abbiamo salvato la vita a centinaia di milioni di bambini e intere generazioni in tutto il mondo grazie ai vaccini, e oggi si può morire di morbillo, per poi di quello che fare ad un'adulta, ad esempio, se durante la gravidanza contrae la rosolia. Cioè noi alcune questioni non ne parliamo più perché ci sentiamo sicuri, perché un'intera generazione fu vaccinata. Però possono, ministro, la stiamo perdendo, ma possono tornare delle malattie che pensavamo scomparse. Ministro, l'invito è di tornare presto a trovarci. Intanto la ringraziamo. Grazie. Per il suo impegno, per essere tornata a Cuore Denari. L'aspettiamo presto. Grazie. Grazie. Buona giornata. Abbiamo il traffico, velocemente. Andiamo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Cuore e Denari. Si apre l'ufficio del direttore, vedi una luce che ti prende. Lui era seduto con una finestrona dietro su un trono con l'anello della banca. Per te c'era un inginocchiatoio, ti mettevi lì. Diceva: prego, baci l'anello e poi dica cosa posso fare per lei. Allora, il nostro intramontabile Bertolino, che va sempre bene per tutte le stagioni quando parliamo del nostro rapporto con la banca. È vero. Parliamo del nostro rapporto con la banca perché questa mattina facciamo un punto della situazione sulla portabilità del conto corrente. Ricorderete che questa procedura, molto più semplice rispetto al passato, è stata introdotta con una serie di provvedimenti nei mesi scorsi. Non stiamo a ricordare tutti i termini, ma in sostanza dal 25 giugno scorso è stata praticamente azzerata la burocrazia che circondava un po' tutto l'atto di trasferimento del conto corrente da una banca ad un'altra. Allora, come stanno andando queste operazioni? Quanti di voi si sono avventurati nella portabilità del conto? Quanti di voi in queste settimane hanno scelto di cambiare banca? La banca vi ha reso le cose semplici oppure ancora ci sono delle complicazioni? Noi stamattina ne parliamo intanto con Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che salutiamo. Dottor Torriero, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E salutiamo anche l'amica Anna Vizzeri dell'Ufficio Studi Economico-Giuridici di Altro Consumo, benvenuta. Grazie, buongiorno. Benvenuta. 800 24 00 24, pronti anche gli ascoltatori. Per ora abbiamo qualche minuto di tempo per riepilogare tutti i termini di questa questione, poi nella seconda parte del programma daremo spazio agli ascoltatori che ci racconteranno le loro esperienze, le loro testimonianze con questa nuova procedura. Prima di tutto volevo fare un punto della situazione con Anna Vizzeri, perché come Altro Consumo naturalmente monitorano costantemente i comportamenti dei consumatori. Ecco, per quello che riguarda questo provvedimento, dottoressa Vizzeri, la portabilità del conto. Come ne hanno approfittato gli italiani, quantomeno i test che fate come altro consumo, che cosa ci raccontano? Perché noi sappiamo che sono un po' pigri e fanno un po' fatica a prendere in considerazione la possibilità di confrontare le offerte delle banche di cambiare istituto. È ancora così? Allora sì, sicuramente c'è una pigrizia del correntista a cambiare, però parlando proprio della nuova procedura, quindi della portabilità, il nostro mystery shopping fatto nel mese di luglio nelle agenzie bancarie e negli uffici postali ha dimostrato che purtroppo la norma non era ancora effettivamente operativa, perché soltanto in 3 casi siamo riusciti a recuperare il famoso modulo per attivare la portabilità. E proprio settimana scorsa abbiamo fatto un'analisi sui foglietti informativi delle banche ed è risultato che in realtà questa famosa nuova norma, che dovrebbe un po' modificare il mercato e quindi favorire la mobilità del correntista, non è presente neppure nei foglietti informativi. Soltanto 3 banche fra le 25 che abbiamo analizzato riportavano appunto le indicazioni della nuova procedura e la tempistica dei 12 giorni lavorativi. Tutte le altre banche, peraltro sono foglietti informativi aggiornati dal 1 ottobre 2015, in realtà riportavano i tempi di chiusura classici del conto corrente, arrivando appunto quindi anche ai famosi 50 giorni lavorativi di cui abbiamo tanto parlato e che dovrebbero in realtà essere un po' superati da questa nuova norma. Dottor Torriero, le faccio subito replicare. Sì. Naturalmente, ecco, il sistema bancario ha fatto un pochino di fatica ad adeguarsi alle nuove normative, siamo nell'ordine di ritardi fisiologici. Come è messo il sistema bancario? Diciamo che ovviamente il provvedimento è un provvedimento che è stato fatto con decretazione d'urgenza, cioè un decreto legge, quindi con una tempistica particolarmente ristretta. Esatto, è un po' indigesta anche alle banche, comprensibilmente, dico anche, perché anche dall'oggi al domani ti devi attrezzare. Certo. Non è semplicissimo poi andare a coprire più di 30.000 sportelli, quindi questo sicuramente ogni nuova normativa necessita di un adeguamento specifico proprio per poter essere veramente operativa. Un rammarico da parte nostra è stato quello che se avessimo avuto più tempo d'intesa con il legislatore avremmo potuto effettuare direttamente una procedura totalmente automatizzata, così come c'era in precedenza, mentre ovviamente avendo poco tempo a disposizione non è poi possibile fare delle procedure totalmente automatizzate. Però mi preme segnalare un punto fondamentale, perché appunto anche lunedì ci siamo confrontati indirettamente con Autoconsumo su questo tema, su un quotidiano molto diffuso. Allora, se noi andiamo a vedere gli obblighi formali che hanno le banche per quanto riguarda l'aspetto dei fogli informativi, in realtà le banche in questo momento stanno rispondendo al foglio informativo, che è un'indicazione che proviene direttamente dalla Banca d'Italia, dove devono essere indicati i tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale, cioè esplicitamente. Non si parla esplicitamente da parte della Banca d'Italia, ma perché questa parte non è stata modificata, del tema del trasferimento, perché qui dobbiamo fare alcune piccole precisazioni. Dottor Torriero, le dobbiamo fare dopo il giornale radio, per cui saremo in grado di essere esaustivi e completi. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Radio 24 apre una finestra sui problemi quotidiani delle persone disabili. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, ma spesso costretti a vivere in un mondo fatto solo per normodotati. Ci diciamo anche noi disabili, perché tutti abbiamo diritto alla socialità, a muoverci nelle nostre città, ad avere spazi accessibili, a non essere considerati cittadini di serie B. Segnalaci ogni disattenzione, sopruso, barriera architettonica o mentale che un disabile sopporta tutti i giorni. Scrivi a anchenoidisabili@radio24.it e noi ti daremo voce dai nostri microfoni. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti. Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, 800 24 00 24, il numero a vostra disposizione se volete raccontarci se siete in procinto di cambiare banca, anzi di far traslocare il vostro conto corrente da una banca ad un'altra. Sapete che da qualche settimana, anzi dal 25 giugno scorso, c'è la portabilità del conto, una nuova disciplina che consente di fare questa operazione in 12 giorni lavorativi. Ho sintetizzato molto un provvedimento che in realtà è un po' più complesso e che manca ancora di alcuni provvedimenti attuativi per proprio consentire una portabilità piena. Ce li stava spiegando poco fa il dottor Gianfranco Torriero dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Allora, abbiamo letto peraltro un bilancio della situazione, faccio pubblicità al giornale concorrente che prima molto diplomaticamente il dottor Torriero citava, proprio lunedì scorso il Corriere della Sera faceva un punto di questa situazione. Lei prima, dottor Torriero, ci spiegava quali tasselli ancora mancano. La Banca d'Italia, le diceva, non indica nello specifico in che tempi appunto la portabilità del conto deve essere fatta e quindi come si incrocia la mancanza di disposizioni della Banca d'Italia con il provvedimento del governo che però c'è e sta diventando operativo. Scusi, vorrei contribuire appunto per fare alcuni chiarimenti terminologici che però sono importanti proprio in termini di cogliere appieno il provvedimento. Allora, anche io normalmente quando parlo di portabilità del conto corrente, anche se poi tecnicamente, formalmente non c'è un trasferimento di un conto corrente da una banca all'altra, ma c'è il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto corrente o al conto di pagamento, cioè non è rilevante, nel senso che noi non stiamo trasferendo con questa procedura totalmente tutto ciò che sta su un conto su una banca X alla banca Y, ma il cliente decide quali servizi trasferire, quando, per essere concreti, i bonifici. Beh, però mediamente quando si avvia questa procedura si azzera quasi completamente il rapporto con una banca per aprirne un'altra. La norma, correttamente, dato che poi le scelte devono essere più flessibili proprio per venire incontro alle esigenze del cliente, prevedono sia la possibilità del trasferimento dei servizi, sia il trasferimento del saldo attivo ed eventualmente la chiusura. Cioè non è detto, cioè noi abbiamo visto proprio in questi primi mesi di applicazione che non c'è necessariamente tutto il passaggio, nella maggioranza dei casi c'è tutto il passaggio dei servizi collegati e anche la chiusura del conto, ma non è detto. Per esempio, il caso tipico che avviene è quello del debito della rata di mutuo. In alcuni casi c'è uno spostamento solo del servizio del pagamento della rata di mutuo, perché ovviamente si va su un conto dove ci sono delle disponibilità sistematiche. Ha fatto l'esempio che fa un po' più arrabbiare gli ascoltatori, dottor Torriero. Lei lo sa, perché se c'è una cosa che si fa fatica a pagare da una banca ad un'altra è la rata del mutuo. Quella generalmente si paga solo sul conto della banca che ci ha fatto sottoscrivere il mutuo, perché trasferirla è quella cosa la più. Con questo provvedimento si può benissimo trasferire da una banca all'altra senza costi, senza nulla. Le dico questo, ho fatto questo esempio proprio perché so che è un esempio calzante. Questo che cosa ci porta come conseguenza? Che la normativa interviene sul trasferimento dei servizi, non così come viene previsto invece esplicitamente dalla normativa di trasparenza di Banca d'Italia sui tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale, che ovviamente riguarda anche il rapporto contrattuale che uno ha con la propria banca. Cioè io non necessariamente quando chiudo un conto corrente lo trasferisco, ma io potrei anche chiudere in modo definitivo un conto corrente. Quindi per banalizzare, dottor Torriero, a beneficio dei nostri ascoltatori, in 12 giorni lavorativi di tempo, quindi che cosa è consentito fare ad una persona, ad un correntista? È possibile trasferire i bonifici permanenti, i bonifici ricorrenti in entrata, gli addebiti diretti cosiddetti RID, ex RID, il trasferimento del saldo che ho sul conto da un conto all'altro e anche l'eventuale chiusura del conto originario. Cioè io posso fare tutti quanti questi o alcuni di questi, ma proprio per venire incontro all'esigenza del cliente, che possono essere sempre esigenze molto differenziate. Poi la normativa di trasparenza e il foglio informativo si focalizza su un unico punto in modo esplicito, che è quello della chiusura del conto. Quindi diciamo che sotto questo profilo, proprio perché tutti i fogli informativi sono stati aggiornati dal 1 ottobre, quando è entrata in vigore la nuova i nuovi fogli informativi che sono stati indicati in modo standard alla Banca d'Italia, ovviamente ogni banca ha dato più o meno evidenza anche del tema specifico del trasferimento, però questo appunto non è un elemento aggiuntivo. Per esempio, questo può essere proprio un ragionamento che potremmo fare insieme con l'Associazione dei Consumatori, dato che noi stiamo lavorando per una semplificazione dei fogli informativi, proprio per poter eventualmente aggiungere in modo po' più standardizzato per tutte le banche, anche nei confronti del cliente, quelle che sono le informazioni proprio sul tema della trascrivibilità, oggi non direttamente normato da Banca d'Italia. Allora, tra l'altro, questa standardizzazione è resa un po' complicata anche dal fatto che le banche, diciamo, non sono ancora attrezzate con una piattaforma tecnologica comune per favorire gli spostamenti, e quindi anche su questo punto immagino si stia lavorando. Altro tema, dottor Torriero, è che manca il... Però... Sì. Mi dica. Mi scusi, però non c'è una piattaforma automatica tecnologica, però c'è una procedura standardizzata che viene fatta attraverso l'utilizzo dei PEC, cioè come abbiamo fatto un intervento proprio per creare le condizioni di poter far dialogare tutte le banche, e diciamo anche quelle che non sono banche, come Poste Italiane, proprio per creare condizioni che tutti parlano lo stesso linguaggio. Questo è un tema importante perché permette poi di rispettare la tempistica imposta dalla legge. Allora, ci sono altri due aspetti che dobbiamo adesso affrontare. Sono quello relativo a che tipo di sanzione, tra virgolette, si metterebbe in campo qualora la banca non rispettasse i tempi che abbiamo appena indicate, e poi quando il conto ha un rapporto un po' più complicato. Se un consumatore, un correntista, ha anche un conto titoli appoggiato sul conto corrente, associato al conto corrente, qua come dire, il trasferimento del rapporto da una banca ad un'altra è più complicato, come ci stanno già segnalando molti ascoltatori che stanno tentando di fare questo trasferimento, ma chiaramente il conto titoli rende tutto più complicato. Addirittura qualcuno ci racconta che ha anche incagliato questo conto titoli perché ha i bond argentini lì dentro, e figuriamoci qua addirittura la procedura non solo è complicata, direi proprio impossibile da completarsi. Le faccio sentire però, dottor Torriero, poi lo commentiamo anche con Anna Vizzeri, il caso di Stefano da Roma. Stefano, benvenuto. Sì, buongiorno a tutti. Ci dica. Sarò rapido. Io ho cominciato a trasferire due conti correnti, quello mio e quello di mia madre, prima di che questa procedura fosse attiva. Ne sto venendo fuori in questo periodo. Diciamo, la cosa più, se vogliamo, divertente, in senso ironico, è stato il trasferire la pensione di mia madre dalla vecchia banca, tra virgolette, normale a quella online. Per me ovviamente la procedura più semplice era quella di andare all'INPS e dirgli: oh, ho cambiato banca, questo è il nuovo numero. Invece all'INPS mi hanno detto: ma signore, oggi si fa tutto online. E uno gli prende il dubbio e dice: cavolo, è vero, nel 2015 si farà tutto online. La procedura online significa scaricare un PDF, cercare i dati sul sito dell'INPS, stamparlo in triplice copia, mandarlo alla banca che dovrà ricevere la pensione, che manda indietro due copie e una copia va riportata all'INPS. Quindi un po' di carta è circolata lo stesso nonostante l'avvento dei conti online. Abbiamo battuto degli alberi e alzato il guadagno di Poste Italiane. Stefano, ce la fa? Allora, quindi questa è la questione della... È perso un sacco di tempo anche. Soprattutto quello, perché qua il tema è che noi vorremmo risparmiare del tempo per fare tutto questo, e invece lo moltiplichiamo come i pani e i pesci. Complicano la vita in continuazione. Stefano, ha chiuso queste procedure, queste operazioni, oppure no? È riuscito a fare quello che doveva fare? Sì, ci siamo riusciti in 2 mesi. In 2 mesi. Anna da Cremona. La carta ha dovuto viaggiare avanti e indietro da Roma a Reggio Emilia. Non era reso un po' più complicata questa situazione, Stefano, dal fatto che magari lei stava agendo per conto di sua mamma pensionata? No, siamo andati lei e sua mamma. Tutte e due assieme. Chiaro. Perché ovviamente temeva anche questo. Grazie Stefano. Anna da Cremona, faccio sentire anche il caso di Anna da Cremona, così poi completiamo con delle testimonianze, andiamo verso la chiusura, abbiamo ancora qualche minuto. Anna. Pronto, buongiorno. Ascolti, io volevo solamente chiedere una cosa: se è possibile trasferire i titoli di un conto deposito da una banca ad un'altra, nel senso, io ho un conto deposito presso la Posta, questi titoli li vorrei trasferire. Lei ha un conto titoli, banca. Anna, non un conto di deposito. Il conto di deposito è un'altra cosa. No, ho sbagliato. È un conto titoli. Ottimo. Conto titoli. No, perché almeno ci facciamo dare la risposta anche corretta. Ecco, se è possibile fare un trasferimento dei titoli che sono su un conto titoli, aprire un altro conto titoli. Cioè chiudere quel conto titolo lì e aprirlo presso un'altra banca. Allora, diciamo che così, a naso la banca, anzi mi pare di capire che lei ce l'abbia con la Posta, con la quale intende chiudere, forse storcerà un po' il naso. La banca nuova sarà ben contenta di accogliere il nuovo cliente. Mi sembrano delle indicazioni di buon senso, Anna Vizzari, però non è detto che sia sempre così. Sì, è possibile fare il trasferimento, diciamo subito, appunto la risposta è facile, è possibile fare il trasferimento. Purtroppo però la nuova procedura, quindi la famosa portabilità di cui abbiamo parlato finora, ancora per il conto titoli non è pienamente operativa, perché manca un decreto del Ministero dell'Economia che sarebbe dovuto essere emanato a fine luglio, ma che ancora non è arrivato. E quindi di conseguenza la procedura per il trasferimento, diciamo così, automatico, un po' più veloce del conto titoli, non è ancora in essere, né si hanno delle tempistiche massime, quindi ci potrebbero essere dei tempi un po' più lunghi e la procedura è ancora quella classica. Quindi, ecco, quindi... Anna può farlo tranquillamente, certo, non può farlo secondo tempi strettissimi. Esatto. Ecco, quindi nel caso aspetto, quando arriverà questa procedura, quando si completerà. Dottor Torriero, lei ha qualche notizia su questo? Siamo in attesa del decreto ministeriale del Ministero, però appunto sicuramente già noi abbiamo una procedura, diciamo, di autoregolamentazione che gestisce in modo differenziato la tempistica da banca vecchia a banca nuova del dossier titoli. Ovviamente sui titoli è un po' più complesso, perché in alcuni casi immaginiamo titoli, appunto come lei citava, che sono in default, oppure soprattutto titoli, quote di fondi comuni che sono depositati all'estero, sono depositari centrali esteri. C'è una complessità in più, perché ovviamente quei depositari esteri non sono soggetti alla normativa italiana, quindi questo è il tema forse di approfondimento che stanno facendo all'interno del Ministero dell'Economia per far diventare cogente una norma che riguarda solamente gli operatori. Però insomma, per dei banali BTP come nel caso di Anna, può fare il trasferimento. Oggi i tempi quali sono per un trasferimento tradizionale di un conto titoli? La nostra procedura, che è quella di autoregolamentazione, sono 19 giorni. Quindi Anna mi ci mette dentro un mesetto, via, complessivo. Perché sono lavorativi. Esattamente. Però ecco, una cosa importante con riferimento al caso precedente, quello dell'INPS, è da ricordare che l'INPS oggi ancora non è cosiddetto coerente, le procedure dell'INPS e il pagamento delle pensioni non sono ancora coerenti con la normativa SEPA, quella normativa che riguarda i sistemi di pagamento a livello europeo. Quindi questo è sicuramente un tema che va affrontato. Noi, in una lettera che abbiamo inviato proprio alle autorità, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia, abbiamo segnalato come quei pagamenti che non sono, diciamo, all'interno delle regole della SEPA hanno maggiore complessità per essere portati a casa. È vero che poi il radioascoltatore aveva segnalato che questa procedura l'aveva attivata prima dell'entrata in vigore della legge, però ecco, sicuramente il punto d'attenzione sull'INPS è una di quelle cose su cui ci stiamo concentrando anche come banca. Un altro aspetto, anche in questo caso potremmo fare un bilancio solamente a normative definite, riguarda l'indennizzo dovuto dalla banca al cliente che si consideri danneggiato da un eventuale ritardo di questa portabilità, anche se abbiamo capito che a Labi proprio parlare con il termine portabilità non piace del tutto. Allora, su questo, Anna Vizzari, a regime completo, diciamo, che tipo di indennizzo è ipotizzato, appunto, nel caso in cui la procedura di trasferimento non si completi in 12 giorni lavorativi? Allora sì, la legge prevede un indennizzo per il cliente che è proporzionale alla durata del ritardo e alla giacenza del conto corrente, però ancora una volta il provvedimento è zoppo, nel senso che comunque bisognerebbe aspettare un decreto del Ministero dell'Economia che sarebbe stato dovuto emanare sempre a fine luglio, entro fine luglio, che ancora non c'è, e che sostanzialmente dovrebbe disciplinare bene questo indennizzo, quindi quantificare anche in qualche modo l'indennizzo per il cliente. Quindi al momento diciamo che questa possibilità non è utilizzabile. Certo, il cliente che subisce dei danni quindi intendo per esempio una duplicazione dei costi o altre conseguenze economiche dovute al ritardo, può sempre provvedere con un reclamo alla banca, e quindi, se poi non riceve una risposta entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo, un ricorso all'arbitro bancario e finanziario. L'indennizzo per un'altra cosa, perché sarebbe automatico, e quindi dal nostro punto di vista sarebbe una leva sicuramente anche per le banche ad adeguarsi più velocemente al trasferimento del conto corrente. Allora, prima di salutare Anna Vizzari e Gianfranco Torriero, vogliamo sentire un altro ascoltatore, un'altra ascoltatrice, Nicoletta. Sì, abbiamo Silvio che ci chiama da Udine, buongiorno, ma ancora prima c'era Angela dalla provincia di Milano, mi scusi Angela, era intervenuta per prima. Angela, buongiorno. Buongiorno, senta, io gli volevo chiedere un'informazione. Io ho il banco Posta, cioè il banco San Paolo Intra. Sì. E volevo trasferire il conto a un'altra banca. Sì. Mi hanno detto che tutto quello che ho, che è una stupidata, si dice, ho 79 anni, e mi hanno detto che non posso trasferirli in un'altra banca perché c'ho questa polizza qua di 5.000 euro. Allora Angela, magari adesso si faccia aiutare se vuole da un nipote, da un'amica, ci scriva una mail. Io credo che, dottor Torriero, anche qua chiaramente dovremmo conoscere nel dettaglio il caso. La polizza vita è un patrimonio separato, è un'altra cosa rispetto a un rapporto di conto corrente. Secondo lei... Sì, è una cosa separata, quindi va analizzato un po' nel dettaglio come è costruito proprio la posizione. Però, diciamo, non a caso prima parlavo di trasferimento dei servizi di pagamento, perché in questo caso si possono trasferire alcuni servizi, non tutto il conto, e quindi con la possibilità di mantenere eventualmente la polizza. Però se c'è una polizza si paga un premio a parte, diciamo che il rapporto col conto corrente generalmente è a zero. Può esserci che c'è una RID, no, un prelievo periodico, ma Anna Vizza, richiedo anche a lei un conforto. Cioè, se ci fosse un premio periodico si potrebbe pagare con un bonifico, un certo, diretto sul nuovo conto corrente. Quindi, insomma, un po' una scusa per evitare la chiusura del conto. Ecco, allora, c'era Silvio da Udine, voleva raccontare che anche in questo caso aveva aperto un deposito titoli che non riesce a chiudere perché ha dentro ancora un investimento su un titolo che è fallito, su una società fallita. Silvio, le faranno compagnia molti altri italiani. Ma questa situazione, dottor Torriero, quando la risolverete come ABI? Tra Bond, allora, Argentini, Parmalat, Cirio, ancora ci sono degli incagli? Diciamo che si è molto, diciamo, attenuato il tema, perché molte dei titoli sono stati risolti con vari accordi. Il tema ovviamente interessa sistema Italia, sistema argentino, veramente è una di quelle cose che deve essere accelerata il più possibile, proprio per una soluzione che ormai è diventata ultra decennale. Però ecco, quando ci sono le crisi degli stati sovrani, ovviamente il tutto diventa molto più complesso. Però grazie, è utile che appunto attraverso il decreto del Ministero dell'Economia possa risolvere anche queste casistiche. Ottimo, grazie dottor Torriero, grazie ad Anna Vizzeri. Noi dobbiamo andare velocemente a raccontarvi la giornata di borsa per poi tornare al tema caldissimo dei vaccini, che vedo che sta appunto scaldando tantissimi ascoltatori. Certo, proprio intanto, come il rapporto con le banche è uguale. Brava. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, 800 24 00 24, a nostra disposizione subito dopo i mercati tre esperti con cui ci confronteremo. Molti di voi ci scrivono, ma avete sentito anche la controparte, seguiteci e ascoltate. State ascoltando un programma offerto da... Lo sanno tutti, Rocchetta, acqua della salute, depura l'organismo. Plin plin. Cuore e denari. Allora, parliamo di vaccinazioni, tema molto delicato. Ci sono tante informazioni discordanti, alcune senza alcun fondamento scientifico, che generano comportamenti pericolosi proprio perché non si basano su fatti ma su opinioni, e in medicina questo può costare caro. La puntata di oggi ha l'obiettivo di fare chiarezza. Voglio subito fare una premessa: oggi, nel tempo a nostra disposizione, non riusciremo certo a trattare in modo completo ed esaustivo tutto il tema relativo alle vaccinazioni. Voi intervenite 800 24 00 24, scriveteci e noi naturalmente torneremo sull'argomento. Intanto saluto gli ospiti di oggi. Benvenuta alla professoressa Susanna Esposito, direttore dell'unità di pediatria ad alta intensità di cura del Policlinico dell'Università degli Studi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. In linea con noi abbiamo il professor Massimo Valsecchi, responsabile scientifico della ricerca sui determinanti sociali della vaccinazione. Benvenuto anche a lei. Buongiorno signora. E il dottor Eugenio Serravalle, pediatra, presidente dell'Associazione di Studi e Informazione sulla Salute, autore di numerosi libri. Dottor Serravalle, parto da lei. Dai titoli di alcuni dei suoi libri, Bambini super vaccinati e Tutto quello che occorre sapere prima di vaccinare il proprio bambino, verrebbe da pensare che lei nutra qualche perplessità sull'utilità e sull'efficacia e la sicurezza della vaccinazione pediatrica. Insomma, qual è la sua posizione? Glielo chiedo perché vorrei sapere da lei se può essere considerato esponente di quella controparte che molti ascoltatori, curiosamente, nei loro messaggi ci hanno invitato ad ascoltare. Molti ascoltatori chiedono il contraddittorio con quello, ad esempio, che ha affermato la professoressa Lorenzin. Dottor Serravalle. Sì, che molti genitori chiedano un contraddittorio mi sembra significativo, mi sembra che evidentemente questo contraddittorio finora non c'è e non ci vuole essere. La nostra posizione, la posizione della mia associazione, la mia personale, non è assolutamente una posizione antivaccinale. Certo. Perché il fatto di pensare che i vaccini abbiano contribuito a debellare alcune malattie non è motivo di discussione, è innegabile. Il problema è che viene ampiamente sottovalutato il contributo che è dato dal miglioramento delle condizioni igieniche sanitarie e dagli standard di vita che hanno permesso di far scomparire delle malattie per cui non è mai esistito alcun vaccino, come per esempio la peste oppure la malaria in Italia. E questo contributo è stato determinante per una riduzione significativa delle mortalità sotto i 5 anni di vita che è iniziata prima della pratica delle vaccinazioni di massa, come dimostrano i dati ISTAT, UNICEF pubblicati negli ultimi anni. Quindi, mi scusi, dottor Serravalle, lei dice i vaccini sono utili, nessun medico potrebbe confutare questa affermazione, ma oltre ai vaccini a migliorare le condizioni di salute c'è stato altro. Ho capito bene? C'è stato altro e c'è il problema nella valutazione del rapporto rischio-beneficio della sicurezza e dell'efficacia. Noi oggi siamo arrivati a proporre 15 vaccini diversi nei primi 15 mesi di vita, siamo arrivati a proporre 32 somministrazioni in 15 mesi. Ora, purtroppo la ricerca in atto non è stata progettata per valutare l'intero programma di immunizzazione e non sono stati condotti degli studi per esaminare gli effetti a lungo termine di una super vaccinazione così come viene effettuata adesso e purtroppo non esiste alcuno studio che ha confrontato lo stato di salute dei bambini mai vaccinati con quello dei bambini completamente. Allora, queste sono le tesi su cui si muovono anche molte polemiche, no, che leggiamo anche sul web. Professoressa Esposito, intanto chiederei al dottor Serravalle se può mettere giù, e lo richiamiamo perché la qualità del sonoro non è buona. Intanto continui a ascoltarci, perché professoressa Esposito, arriva lei. Nonostante il titolo del libro del dottor Serravalle, le autorità sanitarie lanciano un allarme per il calo delle vaccinazioni, sembra che i vaccini siano anche un po' vittime del loro successo, perché sono scomparse alcune malattie infettive, la mortalità infantile si è ridotta drasticamente grazie al calo delle patologie infettive e anche gravi malattie sono state debellate e non vengono quindi più percepite come un pericolo. Il dottor Serravalle dice che non sono stati solo i vaccini, torneremo su questo aspetto, ma questo porta molti genitori a chiedersi perché vaccinarsi contro malattie che non esistono più. Professoressa Esposito, come funziona la vaccinazione e perché occorre vaccinarsi? Ecco, io vorrei sottolineare che questa interpretazione dei genitori relativa al fatto che certe malattie non esistono più è una vaccinazione purtroppo infondata, nel senso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le autorità sanitarie dei paesi mantengono una sorveglianza epidemiologica molto stretta degli agenti infettivi circolanti e delle malattie invasive che causano morti, disabilità e comunque danni permanenti. Per cui il dato epidemiologico va evidentemente contestualizzato a livello socio-economico del paese, ma mi sembra è chiaro che il problema relativo alla malaria, anche citato dal dottor Serravalle, non fosse pertinente a quello che è il discorso prevenzione per le singole patologie e realtà epidemiologica locale. Quindi, se all'interno di un paese vi sono delle raccomandazioni in merito appunto alla somministrazione di un vaccino che altro non è che degli antigeni inattivati o comunque attenuati in laboratorio tali da stimolare il sistema immunitario del bambino, questo viene fatto naturalmente in un modo ben preciso e con la definizione di un calendario in cui le somministrazioni sono effettuate considerando in primis naturalmente la frequenza di una malattia in una determinata fascia di età, in secondo luogo la risposta immunitaria del soggetto e in terzo luogo evidentemente dati che diciamo ho detto terzo luogo ma probabilmente sarebbe da considerare poi anche come primo elemento che porta alla commercializzazione del vaccino l'efficacia e la sicurezza. Per cui l'elemento da sottolineare è che i vaccini hanno avuto un impatto fondamentale e lo dimostrano bene numerosissimi studi, sul crollo in termini di numeri di casi di morti e numero di soggetti con disabilità permanente o comunque di malattie gravi. Questo spiega perché tutte le autorità sanitarie supportino la loro importanza. Certamente il fatto di essere oggi in una società del benessere fa sì che il passaparola piuttosto che l'utilizzo di internet permetta al genitore di così interpretare anche sulla base magari del passaparola tra una mamma e l'altra quella che è la scelta giusta, senza considerare che evidentemente il confronto con medici adeguatamente formati è l'unico elemento che può supportare evidentemente le spiegazioni che i genitori richiedono. Certamente la cosa da dire è che in una società del benessere in cui molte malattie sono scomparse non ne vediamo più e quindi non abbiamo più la percezione. Non sono tanto scomparse, certo si sono ridotte, appunto il non vederle porta a sollevare quesiti in continuazione che richiedono poi tantissimo tempo da dedicare al genitore, tempo che è un che tempo i pediatri dovrebbero comunque trovare per spiegare, come ci invocano più degli ascoltatori in più di un messaggio, quali sono eventualmente le opportunità ma eventualmente anche i rischi. Ecco, certo, ma questo vuol dire che a fronte di un ambulatorio con fuori 20 persone il pediatra che si trova a dover dare spiegazioni che paiono ovvie sull'interpretazione del calendario a volte taglia via con la madre molto dubbiosa, certo. E la madre molto dubbiosa nel momento in cui va al centro vaccinale trova magari un operatore sempre diverso che alla fine non si assume le sue responsabilità. Credo però che certamente il problema educativo sia in termini di proprio presentazione dei dati relativi alle malattie ai genitori stessi, che appunto sui vaccini in termini di sicurezza, immunogenicità ed efficacia siano elementi fondamentali, perché appunto molti dei vantaggi che oggi abbiamo avuto derivano in primis dall'effetto diretto del vaccino, ma in secondo luogo anche dalla cosiddetta herd immunity, cioè l'immunità di gregge, per cui se noi non vacciniamo i bambini e continua a esserci un calo delle vaccinazioni e quindi non c'è più non questa c'è più sorta di cordone di protezione su questo per i soggetti con patologia come possono essere soggetti con patologia cronica. Certo, vorrei capire se abbiamo ripreso il dottor Serravalle che ci sta seguendo bene. Faccio un altro, completo il giro di tavolo col professor Valsecchi. Professore, lei ha condotto un'analisi scientifica nel 2012 nella regione del Veneto per indagare le motivazioni alla base della mancata vaccinazione. Il report, che ricordo si può trovare su internet, è intitolato Indagine sui determinanti del rifiuto dell'offerta vaccinale nella regione Veneto, ha effettuato proprio una fotografia dettagliata a livello regionale che è relativa alle principali fasce di popolazione che rientrano nelle percentuali di chi non aderisce ai programmi vaccinali. Allora, ci vuole tratteggiare l'identikit e le motivazioni che sono alla base di questa scelta e commentare anche un messaggio che ci sta arrivando, forse uno di quelle fattori che allontanano i genitori dalla vaccinazione. Un ascoltatore ci chiede: ma perché non sono rese note le statistiche sia sulla vaccinazione che sulla non vaccinazione, visto che la Costituzione sancisce la libertà di cura, deve essere messo in grado di decidere, devo sapere che cosa mi succede se non mi vaccino, ma anche che cosa mi succede se non mi se mi vaccino e qua se come i vaccini sono efficaci, le controindicazioni, la durata, il fatturato delle case farmaceutiche, di lì continua l'SMS. Professor Valsecchi. Allora, c'è una premessa. Questa indagine è partita sulla base del fatto che la Regione Veneto, che finora è l'unica regione che l'ha fatto, nel 2007 ha sospeso l'obbligo vaccinale. Cioè in Italia noi abbiamo, come già ricordava il dottor Somavalle prima, vacciniamo, il Servizio Internazionale offre gratuitamente circa 15 vaccini diversi, 4 di questi vaccini storicamente sono obbligatori. Ma alla Regione Veneto questa cosa è sembrata un po' anacronistica anche per le motivazioni che questo genitore le ha appena scritto con l'SMS, per cui in accordo con il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo fatto un esperimento di sospensione dell'obbligo che dura quindi dal 1 gennaio del 2008. Questa scelta ha ovviamente reso molto più fluidi, meno conflittuali i rapporti con la percentuale di popolazione, i genitori che non vaccinavano, e ci ha consentito quindi di attivare una indagine che è durata dal 2009 al 2011 che è stata congegnata così. In Veneto l'abbiamo attivata attraverso i questionari dei pediatri di base. Abbiamo fatto un blocco di domande che erano uscite da dei focus group che avevamo preparato prima, e abbiamo suddiviso le risposte per il gruppo dei genitori che avevano accettato tutte le vaccinazioni, un sì. secondo gruppo che avevano accettato solo una parte di vaccinazioni e il gruppo di genitori che avevano sì. Rifiutato tutte le vaccinazioni. E cosa è emerso? Allora, è emerso sostanzialmente alcune cose che non ci aspettavamo, quelle cose interessanti. È emerso che sia in chi aveva vaccinato completamente, sia in chi aveva non vaccinato, quindi nei due estremi, questi genitori dicevano che per il futuro avrebbero potuto ripensare le loro scelte. Questo è un dato importante per la sanità pubblica, perché vuol dire che, a differenza della tradizione antica di tutti i paesi, ormai l'utente è critico e di volta in volta vuol valutare. Certo. Quindi non si può più imporgli niente, bisogna andarsi a cercare il cliente, se mi passa questo termine improprio, e vedere che paure ha e discutere con lui. Che paure sono nate, sono sorte facendo questo tipo di analisi comparata? Professor Valsecchi, la fermo perché devo dare le informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme per sentire il parere anche del dottor Serravalle, della professoressa Esposito, e continuiamo naturalmente con Massimo Valsecchi e con le vostre telefonate. A tra poco. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Cuore e denari. E riprendiamo. Calo della vaccinazione, questo è il tema di oggi insieme ai nostri esperti. Professor Valsecchi, rapidamente, qual è l'identikit del genitore che non vaccina i suoi bambini e quali sono le motivazioni? Ne abbiamo cominciare dalle motivazioni, sì. Se non dispiace. Allora, quello che è venuto fuori dal questionario, è venuto fuori che c'è una netta differenza nella preoccupazione che hanno i genitori che non vaccinano rispetto a quelli che vaccinano, rispetto alle malattie contro le quali noi facciamo le vaccinazioni. Cioè, i genitori che non vaccinano pensano che queste malattie non siano pericolose e addirittura pensano che la vaccinazione sia più pericolosa dell'eventuale malattia contratta dal bambino. Questo quindi è un tipo di valutazione che motiva questi genitori qua. Sì. Il professor Esposito ha già detto come questo purtroppo non è vero. Noi abbiamo, e viene poco riportato, nei bambini non vaccinati e negli adulti non vaccinati dei casi gravissimi dati sì. le vaccinazioni. Il morbillo, per esempio, è una cosa che nella quota di popolazione bambini e non bambini che non è vaccinata crea delle condizioni pesantissime. Sì, la seconda motivo, mi scusi, corro perché voglio certo, dare la parola anche agli altri relatori. È quello che è stato ricordato dal dottor Serravalle, cioè questi genitori credono che se conducono, fanno condurre uno stile di vita sano a questi bambini non saranno colpiti dalle vaccinazioni. Mm. Ora, avere uno stile di vita sano è fondamentale per la crescita armonica del bambino certo. e anche per la difesa da malattie infettive, ma non è sicuramente sufficiente rispetto a queste malattie di cui parliamo, che hanno una capacità di contagio, una virulenza che è strettamente pesantissima. Quindi cioè, su un concetto giusto viene elaborata una risposta completamente ecco quindi sbagliata. Ci sono dei dati che vengono interpretati e si traggono poi delle conclusioni. Dottor Serravalle, un suo commento e poi passiamo alla professoressa Esposito. Sì, io conosco bene l'indagine condotta in Veneto dal professor Valsecchi, così come conosco i dati del Censis che ci dicono che soltanto il 5,6% dei genitori che hanno vaccinato i figli sanno che i vaccini obbligatori sono soltanto 4 e non i 6 dell'esavalente, e che addirittura l'11,2% dei genitori non sa per quali vaccini è stata sottoposta, è stato immunizzato. Ma scusi, al momento in cui vanno a fare la vaccinazione non c'è un foglio in cui si firmano no, e c'è. Si raccolgono le domande per capire anche la condizione di salute del bambino, tanto che molti ascoltatori, ma anche una mia amica mi segnalava, che richiedono anche se il bambino è allergico, ma come faccio a sapere se è allergico nei primi 3 mesi di vita? Cioè, queste informazioni ci sono? sono, oppure cioè, come fa poi il genitore a rispondere a queste domande e poi a dire non so di, a che, per quale malattia l'ho vaccinato, non riesco a capire. Questa è la fotografia del Censis, perché qui purtroppo molte volte siamo di fronte a dei vaccinatori e non siamo di fronte invece a strutture che danno un'informazione corretta. Noi stiamo passando adesso da una disinformazione di fatto a un allarmismo ingiustificato e anzi a un terrorismo mediatico con questa nuova campagna, con questo allarme perché si è ridotto dello 0,5% il dato della copertura vaccinale. Lei non è d'accordo, quindi? Io non sono d'accordo e vorrei sapere davvero che senso ha, per esempio, praticare dei calendari vaccinali uguali per tutti che non tengano conto le differenze individuali. Perché, per esempio, bisogna fare i 6 vaccini esavalente, quanto obbligatori sono 4? Perché non è commercializzato il vaccino contro la difterite singola? Perché non è più in commercio il vaccino contro difterite tetano pediatrico come era prima? E perché non si può vaccinare per la rosolia? Una donna che vuol rimanere in stato interessante deve fare il vaccino trivalente. Quindi ci sono tante domande e quindi è probabile che, non trovando risposte e informazioni a questi dubbi e a queste domande, si generi un allontanamento dalla campagna vaccinale. Allora, professoressa Esposito, lei sicuramente si sarà confrontata. Le dico, professoressa, che abbiamo veramente pochi minuti, torneremo, ma volevamo, perché poi c'è la relazione vaccini e autismo di cui volevamo parlare, purtroppo torneremo a puntate, il tempo a disposizione, non voglio rubarne altro a lei, professoressa Esposito. Ma insomma, vorrei sottolineare che in nessun paese le scelte vaccinali avvengono sulla base della decisione del singolo, che evidentemente non può conoscere, perché una mamma magari laureata o comunque espertissima di qualcosa di specifico, ma non in medicina e comunque non in argomenti inerenti alla pediatria e alla sanità pubblica, può scegliere quello che viene fatto. Quindi è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che stabilisce le regole di base ed è a livello nazionale evidentemente di fatto il Consiglio Superiore di Sanità che stabilisce quelle che sono le regole base, quindi è necessario seguire delle raccomandazioni che non possono essere su base individuale, ma proprio per sfruttare il vantaggio dei vaccini e l'effetto in termini di herd immunity, quello che viene definito dalle autorità. Faccio presente che l'Italia, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in merito al problema eliminazione morbillo e rosolia, è stata considerata uno dei peggiori paesi dell'Unione Europea, e questo deve davvero lanciare un allarme sul fatto che questi segnali sul problema del calo della vaccinazione e anche la necessità di formazione da fare nelle scuole e in diversi ambienti, anche nella televisione, attraverso i media, è un qualcosa di essenziale. Non dimentichiamoci che non esiste più oggi la medicina scolastica, quindi non c'è più un controllo capillare nelle scuole, e anche a fronte dell'asilo delle scuole elementari in cui il genitore non porta il certificato vaccinale, viene privilegiata la scolarità del bambino. Se abbiamo un professoressa... se mandiamo un figlio negli Stati Uniti pagando 5.000 euro per fare il corso d'inglese nel college, è obbligatorio portare il certificato vaccinale, o anche pagando il figlio non entra. Per cui domandiamoci se forse qualcosa in più non deve essere fatto anche nel nostro paese. Anche noi vorremmo fare qualche cosa in più, naturalmente torneremo su questo tema. Ringrazio i nostri ospiti per essere intervenuti. Dottor Valsecchi, professor Valsecchi, un'ultima parola, insieme anche al professor Serravalle, perché vogliamo i minuti devono essere par condicio, scrupolosissima. Ecco, par condicio, abbiamo 30 secondi. Valsecchi? Allora, io non ho nessuna necessità di far polemica con Serravalle, ricordo solo che malattie scomparse non ce n'è, l'unica è il vaiolo che è scomparso, il cui non vacciniamo. Questo è il messaggio, Serravalle? Io vorrei 30 tanto, secondi anche vorrei lei. Vorrei semplicemente che non si ragionasse per spot, perché nessuno può affermare che i vaccini sono sempre assolutamente sicuri. Nessuno al mondo può fare un'affermazione del genere, e i danneggiati purtroppo sono una realtà concreta che io vedo tutti i giorni. Torneremo su questo tema, intanto vi ringrazio, buona giornata, noi ci sentiamo domani come sempre alle 10:30. A tutti.